dopo Fergal con Southside. Da Pippo Pelo è tutto, noi ci sentiamo domani pomeriggio ancora in diretta dal Future Show dalle 4. Ciao a tutti. Dopo il notiziario, welcome to the future. Southside. This is Fergal Kavanagh, benvenuti a Southside questo venerdì 6 aprile. Abbiamo tanto tanto bella musica da ascoltare oggi. Iniziamo subito con The Ocean Color Scene, il quale il loro nuovo album esce il 9 aprile. Questo è Up on the Downside.

francese sta proprio andando al grande. Ricordiamoci di Phoenix, di Mojo, di tutti gli altri e soprattutto questo gruppo qua, Daft Punk, con il loro nuovo e stupendo album intitolato Discovery, quello si intitola Digital Love. Andiamo avanti con la musica on Southside. This is Tahiti 80 and Heartbeats. Enough for me is not much for you. Won't you forgive me? That's all I can do. Can you feel my heartbeat when I'm close to you? Oh, oh, oh, oh. DJ the thoughts you thought, the things you did, the things you said to me. Now I'm living it up. There ain't nothing bring me down, so don't even try. I'll size you up, I'll size you down, I'll size you around this crazy upturned town that's burning with love and hate and things you can't understand. There's too small or great. Oh, I can't wait for this time to come. I can't wait for this time to come. Stereo MCs with Deep Down and Dirty, e questo viene dal loro primo album in 9 anni, e addirittura loro stanno già lavorando sul prossimo album, anche se questo Deep Down and Dirty non è ancora in uscita, esce il 28 maggio. E ragazzi, se siete a Londra questa sera la potete vedere al Fabric. Infatti Antonio Eraci, il nostro programmatore, sta lì, e quindi magari tornerà qua con tutta la storia di Belle Stereo MCs. Io sento in sottofondo il Southside, nostra tema, musica di tema. This is Moby. The light come over, no. I see myself in the pouring rain. I watch hope come over me. A new radio station. A new sound. Southside. Southside. Quello che avreste voluto sempre ascoltare. Mm-hmm. Costa with Like a Feather, bellissima questo pezzo. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento storico che è successo oggi nella musica in passato. Allora, oggi è il 6 aprile, guardiamo indietro al 1968 e vediamo che Syd Barrett se n'è andato da Pink Floyd. Praticamente loro, il resto del gruppo, hanno visto che stavo usando troppe droghe e hanno chiesto le sostituzioni a Dave Gilmour. Però prima che se n'è andato, Syd Barrett aveva registrato e scritto un sacco di brani per i Pink Floyd. Questo è uno dei loro primi singoli, i Pink Floyd, and See Emily Play. Misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Touches the ground. Runs on a river forever and ever. Emily, Emily, there is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for me. See Emily play. Network. Here we are again.

Frank with Amazing, incredibile on Southside questo venerdì sera. Allora, è stato annunciato una bellissima concerto, un appuntamento a Verona di sicuramente da non perdere. Il 30 maggio di quest'anno suoneranno i Radiohead, e i Radiohead hanno già suonato l'anno scorso, hanno fatto 4 concerti in Italia, però quest'anno fanno solo 7 concerti in tutta Europa, che chiuderà il 7 luglio in Oxford, il loro casa di nascita, diciamo, da dove vengono i Radiohead. E l'album, nuovo album, esce il 4 giugno, si intitola Amnesiac, e ci sarà un singolo di nome Pyramid Song che esce il 21 maggio, e quindi molto attività per i Radiohead. Noi li ascoltiamo da loro Kid A, un numero uno per loro in America. Questo è il brano Idiotech. Southside, here we go. Kiss, I'll change your ball for my bliss. Let go my hand and it will slip. ecco, siamo alla fine di un'altra trasmissione, anzi alla fine di una settimana intera di Southside, e abbiamo chiuso con un gruppo svedese, da Sweden. Il nome del gruppo è The Ark e It Takes a Fool è il nome del brano. It Takes a Fool to Stay Sane. Ladies and gentlemen, vi saluto, che devo fare auguri, buona fine settimana, e noi ci sentiamo precisamente lunedì alle 18 su Radio Kiss Kiss Network. This is Virgil Kavanagh saying buon weekend. Southside. Per un'ora, Virgil si proietta nelle nuove tendenze.